Allora, la proroga è inutile creare illusioni, non ci sarà. Noi in commissione abbiamo fatto molte proposte. Quello che sicuramente questo provvedimento vede come carente è la parte dello sviluppo, cioè siamo concentrati sulla rigorosità dei tagli e sulla rigidità, se vogliamo. E del resto è un provvedimento unico, storico, nuovo, dove gli spazi sono margini bassissimi. Senatore, quando lei dice mettetevi l'anima in pace, perché lo ha detto in tono molto reciso, quindi vuol dire proprio che non la vede la chance. Guardi, noi stiamo vivendo dentro la Commissione. Io ho tardato a collegarmi con voi perché abbiamo fatto l'ennesimo incontro adesso con l'economia per tentare, anche sulla spinta di molte categorie del paese, le forze dell'ordine ieri, ma non solo, quindi anche le imprese sotto altri punti di vista, E non di si passa, capire. non si passa. Non ci sono margini, c'è addirittura c'è la fretta di chiudere a questo punto, nonostante abbiamo fatto una settimana in più di commissione, perché chiaramente ieri è tornato anche il Presidente del Consiglio, lui stesso subisce le pressioni che ovviamente rivolge al Ministro e poi quindi a noi. Ci sono problematiche di tutti i tipi, l'LSU in Sicilia, cioè abbiamo Quindi insomma, veramente più parlate e più l'assedio. tenete aperto il dibattito, più Esatto, il ministro dice mi create più problemi. Meglio che, meno esattamente. parlate e prima votate, meglio è. Esattamente, io ho anche la sensazione, se posso dire, per la sensibilità mia personale, ma per aver vissuto quotidianamente da 2 settimane e mezzo col Ministro e comunque con i suoi collaboratori, tutto l'andamento di questo provvedimento che su una parte relativa allo sviluppo, che veramente non si può negarlo, manca in maniera importante su questo provvedimento, nonostante il titolo parli anche di questo.